Sociologia del lavoro. Per motivi di ricerca sociologica ho provato anch'io una volta a mettermi panni dimessi, camicia senza colletto, calzoni turchini sporchi di calce, la barba lunga e i capelli scarruffati. Ho provato in questa tenuta e munito di piccone, paline bianche e rosse a strisce e lanternino cieco per la notte. Scelto un altro quartiere perché qui ormai mi conoscono, ho provato a scavare uno spicchio di strada e poi a lasciarci la buca. Nessuno me lo ha vietato e anzi il giorno dopo c'erano operai a disfare il mio lavoro, a riempire la mia buca, guidati da un geometra in camicia bianca ma senza cravatta, serio. «Che lavori sono?» chiesi e lui fece un gesto vago senza rispondere. Mi pagarono anche la giornata, quando mi presentai all'ufficio tecnico comunale. Poco, ma me la pagarono. E io conservo il mandato e posso anche esibirlo a richiesta, se qualcuno non ci crede. Luciano Bianciardi